Io credo che soprattutto la solitudine e l'introspezione siano due elementi da mettere in gioco. Sara è dotata di un superpotere. Non è il superpotere di Ricciardi, che è una condanna, poi in realtà, che è una metafora della compassione, no, la percezione del dolore altrui. Nel caso di Sara, questo superpotere è l'ascolto, l'attenzione. Una cosa che noi non abbiamo, se non raramente. Il nostro protagonismo egocentrico ci porta costantemente ad attendere il nostro turno per poter parlare e poter dire la nostra. Questo attendere il nostro turno significa raramente ascoltare gli altri, significa aspettare il nostro turno. Sara ascolta, Sara guarda e ascolta con una concentrazione assoluta. Sgombrando la mente da ogni pregiudizio, sgombrando il cuore da ogni pregiudizio, ponendosi in ascolto, pronta a ricevere la verità anche dietro le parole stesse. Io credo che questo, che dovrebbe essere la normalità, no? Cioè ascoltare chi ci parla, dovrebbe essere la cosa più semplice del mondo, in realtà è una cosa molto complicata e molto rara. In Sara questo arriva chiaro e forte, ed è un po' anche quello che succede a Ricciardi. Ricciardi addirittura ascolta il dolore direttamente, senza passare nemmeno per la voce, senza passare nemmeno per la bocca degli altri. In qualche modo anche lo Iacono dei Bastardi è così. E lo chiamano il cinese per la sua impassibilità, per la sua facoltà di concentrarsi in maniera così totale da sembrare quasi addormentato. E invece lui è perfettamente connesso col mondo attorno a lui e con chi deve e con chi, e con le persone da cui può ottenere le sue informazioni. Quindi direi che questo fatto del superpotere dell'ascolto sia forse un tratto distintivo che unisce un po' tutte le serie fra di loro. Ecco, tornando invece al personaggio di Davide Pardo, l'amico poliziotto di Sara che poi la coinvolge nello specifico in questo caso, lui, anche lui è un uomo solitario, è un uomo che avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli, ma la vita è andata in modo diverso e si affeziona particolarmente al nipotino, di Sara, Massimiliano. Ha veramente un istinto materno, tu lo scrivi diverse volte nel romanzo, forse quasi più spiccato di quello della madre stessa, di Viola. No, più di tutti, Davide Pardo in realtà è il mio personaggio femminile della serie di Sara. È portatore di quei valori che normalmente noi siamo portati ad annettere alle donne e che invece nella società contemporanea possono essere facilmente maschili, anzi, molto spesso sono maschili, che è quello di avere una famiglia, dei figli, una casa, di essere responsabili anche delle vite altrui. E purtroppo i tempi e i modi della vita di Pardo non gli hanno consentito questa cosa. Ha avuto delle relazioni importanti che non sono andate in questo senso, è rimasto solo e adesso, davanti al bambino di Viola che nasce senza un padre, prende istintivamente questa responsabilità, molto più di quanto Viola stessa sia in grado di fare. E, essendo Viola una ragazza, avendo ancora delle ambizioni professionali da sola e avendo Viola una famiglia, una madre che è tutto tranne che la nonna ideale che uno vorrebbe vicino al nipotino, insomma, diciamo. E quindi niente, Pardo è così. Io credo che Pardo sia il personaggio che in questo romanzo abbia l'impulso di crescita maggiore, sinceramente, cioè quello che fa il maggior passo avanti, ecco, rispetto agli altri personaggi, perché ha anche stavolta lo spessore di essere il tramite della notizia di questa sparizione su cui indagheranno tutti. Quindi è pure primariamente responsabile di questa storia. Un'ultima domanda, Maurizio De Giovanni. In questi giorni in più di 80 librerie italiane stanno arrivando le copie di questo romanzo, Una lettera per Sara, firmate, perché ovviamente purtroppo le presentazioni dal vivo non si possono svolgere. Quanto ti sta mancando l'incontro con il pubblico? Ah, non sarà un virus a impedirmi di far avere ai miei lettori le copie firmate. Lo farò sempre, l'ho fatto sempre. Stavolta lo faccio in questa forma, nell'attesa di poter tornare subito a incontrare i miei lettori, soprattutto quelli lombardi, che mi mancano moltissimo e a cui sono vicino in maniera totale, con tutto l'affetto che ho. nei confronti dei miei elettori della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, delle regioni più colpite. C'è una comunità tra lettori e scrittori, forte, coesa e profondamente empatica. Questo tipo di vicinanza, stavolta è fisicamente impedita, a me manca moltissimo, ma sono certo che appena possibile sarà la prima cosa che farò, quella di andare a salutare i miei lettori libreria per libreria. Grazie a Maurizio De Giovanni, ora in libreria con Una lettera per Sara, pubblicato da Rizzoli nella collana Nero Rizzoli. Grazie Maurizio. Grazie a te. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Ci sono romanzi che chiedono al lettore un atto di fiducia, insomma, chiedono un po' al lettore di abbandonarsi ad una narrazione che non è esattamente lineare. In questo caso, secondo me, si chiede al lettore proprio di entrare in un gioco, in una dimensione quasi onirica, in qualcosa che è narrato con una lingua anche un po' insolita. Il romanzo è L'inguaribile di Tommaso Soldini, pubblicato da Marcos y Marcos. È un romanzo decisamente originale, a volte può sembrare anche spiazzante. Come dicevamo, sembra essere un grande gioco fra i personaggi, ma anche un grande gioco fra lo scrittore e i lettori. E poi ci sono anche dei giochi linguistici. Allora, innanzitutto qualche elemento di trama. Ci sono Michele e Gemma che sono sposati. Una sera stanno leggendo ad alta voce alle loro figlie Il fantasma di Canterville. Gemma però improvvisamente inizia a cambiare le parole e praticamente, come in una sorta di sottotesto, comunica al marito che deve andarsene di casa. Insomma, lei lo sta lasciando. Lui incredulo esegue e va via. Si getta poi sul lavoro, lui fa il giornalista, segue un caso di cronaca nera su un neonazista. Un giorno però vede un cappello rosso entrare in un locale di scambisti e pensando che sotto quel cappello ci sia sua moglie, inizia a seguirlo. Il romanzo quindi è la storia, possiamo dire così, dell'inseguimento del cappello rosso, ma anche la storia, cioè l'indagine sul caso di cronaca nera. Allora, Tommaso Soldini, non è facile appunto parlare di un romanzo come il tuo perché è veramente pieno di sfumature e la bellezza è proprio nel modo in cui la storia viene raccontata. Partiamo però dai due protagonisti, Michele e Gemma, insomma, chi sono questi due personaggi? Beh, Michele e Gemma appunto sono marito e moglie che già all'inizio del romanzo si sono sempre sentiti diversi dagli altri, no? Loro non erano questo, non erano quello, non si comportavano come, dice così l'esordio del romanzo, l'inizio del romanzo. Cioè sono un uomo, una donna che hanno vissuto una strepitosa, grande storia d'amore, salvo non rendersi forse conto che quella storia d'amore rischiava forse di ingrigirsi, no? È questa poi l'accusa che Gemma muove al marito. E forse proprio per questo, quando le storie si ritengono, come tutte le grandi storie d'amore in realtà, questo mi preme sottolinearlo, non sono diversi dagli altri perché lo sono veramente, ma sono diversi dagli altri in quanto nella logica stessa dell'amore si sa o si pensa che vi sia il desiderio dell'immortalità e soprattutto della esclusività, no? Quindi loro sono due esclusivi che in qualche maniera devono affrontare l'esclusione. Ecco, a proposito delle accuse che Gemma fa a Michele, a un certo punto c'è la famosa lista inserita nella causa di divorzio dei difetti o comunque dei problemi che Gemma imputa a Michele. E per esempio leggo: quando lava i piatti non adopera mai il sapone, cambia l'orario della sveglia senza consultarmi, non apre le buste, non allaccia mai la cintura di sicurezza e così via. Insomma, sembrano cause apparentemente banali, ma a volte forse nella banalità si celano delle grandi verità. Ma sì, diciamo, questo forse l'ho un po' imparato, almeno le letture che mi hanno aiutato ad arrivare a quella lista, direi che sono soprattutto letture americane degli ultimi anni. Forse in particolare mi viene in mente Franzen, che ha alcune pagine meravigliose di questo genere. E la verità che ho cercato dentro l'io, che comunque mi è sembrato di incontrare leggendo queste pagine, è che nei dettagli, no? In queste piccole, vero, accuse di vita microscopica per certi versi, di vita molto materiale, si nasconde qualche cosa di più, rischia di nascondersi qualche cosa di più quando la ragione per cui si sta insieme, vale a dire la parola amore, non basta più in se stessa, ma ha bisogno di essere declinata, no? Gemma in qualche maniera lo accusa di cose apparentemente trascurabili, ma sotto le quali si può nascondere qualcosa di grosso. Ecco, apparentemente Michele accetta tutte le richieste che vengono fatte da Gemma, insomma, quindi sembra essere apparentemente passivo. Poi in realtà lo vediamo nel romanzo che è animato dalla grande passione, per esempio, per Gemma. Insomma, lui insegue questo famoso cappello rosso che abbiamo detto all'inizio e poi si appassiona anche al caso di cronaca. Insomma, è un personaggio dalle mille sfaccettature, Michele. Beh, grazie, sì. Per quello che dici, da una parte mi giova, dall'altra mi ricorda una frase che diceva Alberto Moravia sulla scrittura e che io ho letto un po' come guida, no? Per quello che cerco di fare, ovvero i personaggi sono belli o riusciti quando sono vivi, no? E lo diventano nel momento in cui hanno una loro vita, chiedono una loro vita e dunque chiedono complessità in qualche maniera. Ecco, diciamo, Michele è contemporaneamente passivo agli occhi della moglie, che infatti lo caccia di casa e lo costringe all'attività, ma contemporaneamente attivo quando, per esempio, scrive, perché lui è sì un giornalista di cronaca, ma è un giornalista di cronaca anomalo che usa la penna non per elencare fatti, semmai per immaginare le possibili ragioni per le quali, diciamo così, i vari personaggi di cui si occupa avrebbero agito in quel modo. Ecco, veniamo appunto a questo club di scambisti nel quale Michele entra appunto per seguire questo famoso cappello rosso sotto il quale ci dovrebbe essere Gemma. Ecco, qui c'è quasi una dimensione irreale, insomma, quasi onirica, ma anche molto giocosa. Che reazione ha Michè, perché spesso nel romanzo è chiamato come Michè, non come Michele, che reazione ha entrando in questa appunto dimensione? Beh, di sbigottimento e straniamento, no? Sicuramente. Uno, perché già soltanto la scoperta che la moglie sarebbe entrata in un locale per scambisti lo scaraventa al di fuori di se stesso, ovvero dell'idea che ha sempre avuto della moglie. Quindi questo già penso che sia, diciamo così, possa essere, immagino, una notizia sconcertante per chiunque di noi abbia una relazione, no? Scoprire una cosa del genere del proprio coniuge, della persona con cui stiamo. In secondo luogo, poi c'è la realtà in sé, perché io ho pensato a un locale per scambisti, ma l'ho poi declinato più nella dimensione dello scambio di realtà in qualche maniera, no? E lì ho giocato un po' con la letteratura, un po' anche con l'idea della realtà virtuale, per esempio, che è, mi pare di poter dire, una sorta di terza realtà che frequentiamo sempre di più e in questo periodo persino troppo spesso. E per arrivare lì, infatti i riferimenti vanno anche spesso in questa direzione. Ho insomma un po' immaginato una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie, una sorta di Paese delle Meraviglie, nel quale vi sono delle regole loro, no? Quindi straordinarie, ma anche capaci di mettere il personaggio in un profondo contatto con se stesso e con le cose. E a proposito di Alice nel Paese delle Meraviglie, forse non è un caso che l'uomo, diciamo, di cui lui sta seguendo il caso giudiziario, sia Robbie Ratter, che insomma è accusato di truffa, anche di tentato omicidio nei confronti di un suo amico, venga soprannominato il Coniglio Bianco. Insomma, anche in questi elementi ti sei un po' divertito appunto a giocare anche con il lettore, a dargli degli elementi e dei rimandi della letteratura altra, in questo caso Alice nel Paese delle Meraviglie, ma ce ne sono tanti altri. Sì, la parola gioco che hai usato anche tu molto spesso è per me una parola importante in questo romanzo, sia a livello di scelte linguistiche, sia a livello di piani di realtà, di rimandi letterari. Quindi ho provato anche appunto a dire la mia su quello che è uno degli aspetti della realtà letteraria italiana contemporanea e del suo modo di creare riferimenti e collegamenti con la letteratura precedente, no? Questo romanzo gioca appunto con, per esempio, i vari livelli, diciamo così, di riferimenti, per cui passiamo da Alice del Paese delle Meraviglie a Chi ha incastrato Roger Rabbit, sempre per rimanere alle presenze del Coniglio Bianco, e troviamo, che so, riferimenti a Lolita, come a Thomas Mann, come a Harry Potter. Ecco, quindi diciamo, costruisce un suo ventaglio di riferimenti culturali che forse sono sempre lì al limite, diciamo, tra il gioco, che però vuole essere uno strumento di conoscenza e uno strumento di narrazione del tragico, no? Penso che sia questo in fin dei conti lo scopo, cioè trovare nelle scelte linguistiche e nei diversi rimescolamenti anche dei piani di realtà un modo per colorare il nostro vivere, che non sempre è gioioso, felice e solo positivo, ma anzi, al contrario, purtroppo molto spesso ci confronta, pensiamo solo a questo momento, con il tragico, no? Ecco, a proposito di gioco, c'è anche un gioco con la lingua, dicevamo all'inizio. Ci sono una serie, per esempio, di note a piè di pagina che aprono una serie di parentesi, non è una cosa così frequente nei romanzi, ma ci sono anche delle parole che vengono troncate, dei nomi, appunto, come dicevamo prima, che sono evocativi, dei giochi di parole, anche una sintassi particolare. Come mai hai voluto usare questo tipo di lingua per questo romanzo? Allora, beh, io ho pensato, insomma, che in qualche modo questo romanzo dovesse trovare, diciamo così, una sua forma di realismo, dichiarandomi anche abbastanza apertamente debitore del cosiddetto realismo isterico, quindi le note a piè di pagina, in particolare, e alcune parti di sintassi elaborata sono dei rimandi abbastanza diretti a quello che viene chiamato il realismo isterico, quindi a questa necessità che si ha di riempire di parole la pagina, perché facilmente ci si rende conto che i nostri processi mentali, di pensiero, eccetera, ogni volta che vengono sintetizzati, vengono automaticamente anche banalizzati, no? Quindi da una parte c'è questa esigenza, che si combina però anche con, diciamo, troncamenti, eccetera, eccetera, che rimandano anche al senso della storia in sé. Quindi la storia nasce con un troncamento, nasce con Gemma che, giocando con la lingua e con la letteratura, butta fuori di casa Michele. Quella scena lì diventa per me la natura profonda dello stile che poi io, cerco in tutto il resto del romanzo. Grazie allora a Tommaso Soldini, ora in libreria con Linguaribile, pubblicato da Marcos y Marcos. Grazie Tommaso. Grazie a voi. E anche per oggi è tutto. Grazie al settore tecnico che ha supportato il montaggio di questa puntata del Cacciatore di Libri. Vi ricordo che se volete potete seguirci sui social, in particolar modo su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24, ma anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.